2 e 3 aprile negli spazi di Leggere Strutture Art Factory si terrà l'evento performativo e mostra fotografica Verde Tempo. Noi siamo qui per parlarne con Marta Tabacco, danzatrice, performer e autrice. Ciao Marta e benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao Rachele, ciao a tutti, buongiorno. Allora Marta, diciamo che questo evento in realtà è il risultato di un precedente progetto in cui avete coinvolto anche direttamente i cittadini. Ti va di raccontarci un po' che cos'è accaduto? Sì, il progetto si chiama Progetto Aprile ed è un progetto che in realtà ho realizzato l'anno scorso per la prima volta a Vicenza, che è la mia città natale, e che ho riproposto quest'anno appunto in una nuova versione a Bologna. Quest'anno ha previsto una call pubblica, aperta a tutti, e che ha coinvolto i cittadini bolognesi. Questi cittadini dovevano inviare per partecipare alla call un input. Io ho chiesto un input utile a un processo creativo, senza specificare null'altro, quindi lasciavo massima libertà, e anche un luogo all'interno del centro storico di Bologna dove sarebbe avvenuto l'incontro. Quindi io nella prima fase del progetto, di Progetto Aprile, mi sono incontrata proprio con queste persone che hanno partecipato alla call nel luogo da loro indicato, ricercando sull'input che loro mi avevano inviato. Gli incontri hanno avuto una durata di 45 minuti, un'ora ciascuno, e hanno visto la collaborazione di un fotografo che ha preso parte proprio attivamente all'incontro. Ti volevo chiedere come la danza si inserisce all'interno di questo progetto, perché appunto tu sei danzatrice, performer, coreografa, e quindi insomma ero curiosa di capire come la danza si possa appunto inserire qua, ecco. Sì, gli incontri iniziavano con un dialogo proprio con i partecipanti, a cui facevo appunto delle domande per capire il motivo della scelta dell'input e come l'input poteva essere relazionato allo spazio che avevano scelto. Dopodiché la ricerca era principalmente corporea, nel senso, non direi per forza danza, anche se il movimento danzato è venuto fuori molto spesso, ma proprio con il corpo, con il movimento abbiamo ricercato sull'input, quindi ci siamo mossi nello spazio, ci siamo mossi insieme, ci siamo mossi a partire dai suoni dello spazio, ci siamo mossi a partire dalle luci, da tutto ciò che lo spazio ci dà come input, è partito un movimento proprio del corpo. Dopo, in realtà, tutto questo materiale è stato per me fondamentale per la seconda fase di questo progetto, che mi ha visto in residenza presso Spazio Muvet, perché ho avuto l'appoggio con Habitat, la rete di residenze dell'Emilia Romagna, e lì io ho proprio rielaborato coreograficamente il materiale che è venuto fuori da ogni singolo incontro. Quindi da lì proprio ho sviluppato la parte che mi ha portato e che mi porterà alla rielaborazione coreografica e a quello che appunto dici, danza. Infatti questo fine settimana, appunto il 2-3 aprile, diciamo che si vedrà un po' l'esito performativo appunto di questo progetto. Com'è possibile partecipare? Bisogna partecipare iscrivendosi, mandando una mail indicando il proprio nome. L'entrata è gratuita con tessera ARCI nel rispetto di tutte le normative, e appunto sarà un evento performativo in cui si vedrà una esposizione fotografica, proprio delle foto. Ci saranno 44 foto, sono 4 foto per ogni incontro, sviluppate appunto da 2 fotografi, e poi ci sarà la rielaborazione mia coreografica. Perfetto Marta, io ti ringrazio per averci raccontato da più vicino Verde Tempo, insomma in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo, viva il lupo, e vi aspettiamo tutti a Verde Tempo.